Tu hai idee così chiare del tuo Dio da essere sicura che adesso, proprio adesso, il tuo Dio tra me e te sceglierebbe te da portare in salvo con lui in paradiso? Ma non dissi niente di tutto questo. Stavo imparando a tacere in quel periodo. Ma a me hai continuato a parlare di Babbo Natale. Mi hai detto che quell'anno, per Natale, avresti voluto un bell'orso di peluche. Non di quelli duri, con il muso duro, il pelo ruvido, le articolazioni rigide e lo sguardo fisso in un vuoto che sa di mummia. No, mamma, quell'anno a Natale volevo un orso morbido, di quelli che di solito indossano un bavaglino bianco con una scritta gialla, solo il re delle macchie, e hanno un muso che non puoi non parlarci, stanno lì, ti ascoltano, giocano con te, ti consigliano, insomma come si fa a non capire quanto fosse importante per me e con quanta forza io desiderassi un orso di peluche. E infatti, quell'anno Babbo Natale te ne portò uno bellissimo, lo avevi chiamato Joe. Joe! È stato con me quasi tutta la vita. L'ho perso in queste ultime settimane. Non so come sia stato possibile. Non so tante cose di queste ultime settimane, mamma, non lo so quante. Non lo so davvero. Scusami, ma mi devo coricare. Solo qualche minuto. A presto. Alan Turing, si alzi, metta la mano destra su questa Bibbia e giuri di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità. Dicalo, giuro. Metti il frutto nel veleno fino a quando ne sia pieno. Fatti bella per stregarla e per sempre addormentarla. Siamo esseri malvagi che vagano disperati e affamati su questa terra senza speranza. Il meglio a cui possiamo aspirare è navigare poco sotto la linea della cattiveria. No, mamma, non è la frase di una tragedia greca. È quello che ci dicevamo, io e gli altri, chiusi nelle nostre baracche durante la guerra. Era bellissimo, anche se può sembrare da pazzi dirlo ora, ma era bellissimo davvero. Sembrava un film, e lo era per noi. Eravamo soldati, ma non correvamo nessun rischio. A ogni nostro errore, invece, una bomba cadeva in testa ai nostri amici, alle nostre famiglie a Londra, e i nostri soldati finivano sotto il fuoco nemico, e questo avrebbe dovuto uccidere le nostre coscienze, peggio di una V2 di Hitler, ma noi eravamo giovani e folli, ci sentivamo i cavalieri di Re Artù, impegnati nell'eterna lotta al male, nell'infinita ricerca del Santo Graal che ci avrebbe regalato la pace e la felicità per sempre, ed eravamo tutti tremendamente snob, anche se vivevamo in baracche di legno malmesse e non in castelli medievali. E i draghi allora spuntavano fuoco, un fuoco che bruciava tutto. Io me lo ricordo bene, Alan. Io le bombe le ho viste. Quando pensavo a te, mamma, era l'unico momento in cui sentivo il peso di quello che stavo facendo. Allora smettevo di giocare contro il nemico nazista e mi mettevo di impegno a lavorare e soffrire. Ma loro, i tedeschi, erano bravi, davvero. È stato allora che ho iniziato a pensare a Dio. Che se bene e male erano così chiari cosa diavolo stava succedendo, appena scoprivamo un codice per spiarli, loro, I tedeschi lo cambiavano e a volte non scoprivamo niente per settimane o per mesi. È stato il momento più drammatico. Le bombe cadevano ovunque. Tutte le notti vedevamo le fiamme di Londra e la voglia di giocare se n'era andata, lasciando il posto all'angoscia, quella sensazione di alluminio rancido che ti ritrovi tra la lingua e il palato il giorno dopo le notti di festa. E stai lì a prenderti la testa tra le mani, a dire che non ci cascherai mai più, che giuro mamma, domani non esco, domani studio fino a tardi, domani! Nessuno di noi in quei giorni pensava di avere un domani, ma per fortuna ci sbagliavamo. E poi abbiamo smesso di inseguire le mosse del nemico. È come nel canottaggio. Inutile colpire remo su remo se ti accorgi che il loro ritmo è troppo alto. Concentrati sul tuo ritmo. Pensa al cuore. Senti i colpi. Dimenticati del respiro. Senti, senti che non affanni più. C'è solo il cuore che colpisce lento e regolare, poi sempre più veloce, così veloce che non lo immaginavi nemmeno. E l'altra imbarcazione non c'è più, c'è solo una striscia d'acqua scura che corre davanti a te. C'è solo l'acqua e il tuo cuore. E quando non c'è più nemmeno l'acqua, rimane il cuore. È la testa che lo fa funzionare. Così costruimmo il nostro Colossus, la mia prima macchina intelligente, l'arma che svelò i segreti dei draghi cattivi, e le loro bocche sputarono meno fuoco e noi riprendemmo a sentirci come cavalieri alla corte di Re Artù. Me l'hai raccontata mille volte questa storia, Alan, ma a quelli che dicono che bisogna rielaborare i lutti, rivivere i traumi per liberarsene, io rispondo che parla così chi non ha vissuto lutti, chi non ha subito traumi. Io penso che le sole cose che dovremmo rivivere sono le cose belle, mamma. Quelle che ci scaldano un pochino dentro dal freddo che fa là fuori. Dove ci sono loro? Notte, mamma. Sogna. Alan, sogna sempre. I sogni sono figli della fantasia, come le parole sono figlie dei pensieri. Tu, Alan, hai preso da me. Anch'io ho sempre sognato. Pensa, poco fa è venuto a trovarmi il tuo orso. Sorrideva, mi ha detto che stai bene, che sei dimagrito, che non mi devo preoccupare. Caro Alan, lo ritroverai, il tuo orso, lo ritroveremo, vedrai. Dica, professor Turing, lei lo conosce, ragazzi, seduto in prima fila? Aspetti, non risponda subito, mi lasci finire la domanda. Ci dica, professor Turing, se lo conosce, come mi sembra chiaro. Ecco, ci può raccontare come l'ha conosciuto? Mamma,

mi sono tornate in mente le cose che pensavo quando ho iniziato a scoprire la morte. Per un ragazzo, per un bimbo, è quasi un rito. Il passaggio all'età adulta, strappato dal mondo delle favole. Corpo e spirito. In quel tempo, e per molto tempo dopo, ci ho ragionato a lungo su questa cosa. Corpo e spirito. Il corpo, in quanto forte presenza fisica, attiva, piena di energia, è in grado di attirare il proprio spirito a sé e di tenerlo stretto per tutta la vita. O quasi. Perché arriva un tempo, prima o poi, che il corpo non ha più le energie e le forze di prima. Come un pianeta che non sa tenere a sé i suoi satelliti. Lo spirito allora inizia ad allontanarsi, fa giri più lunghi, vola come a vedere di trovare un altro corpo, un futuro. Il corpo si spegne e lo spirito si libera sempre di più. È un processo lentissimo e i numeri qui si fermano. Ma va così. Mentre tu chiudi gli occhi per l'ultimo respiro, il tuo spirito se ne andrà lontano, portandosi chiuso nella sua immensa esperienza un vago sapere del corpo che è stato, e con questa traccia andrà in cerca del corpo che sarà. Io lo so come la pensi su Dio. Alan, ne parlasti anche con quel bambino sul campo da tennis. Te lo ricordi? Il figlio dei nostri vicini stava seduto sul campo da tennis in mezzo alla nebbia e non se ne voleva andare. La madre urlava. Io mi sono avvicinato, mi sono seduto accanto a lui sulla terra rossa, scura d'acqua, e gli ho chiesto: secondo te Dio prende il raffreddore se sta seduto d'inverno su un campo da tennis bagnato? Lui mi ha guardato serio serio e mi ha detto: Dio sta in chiesa, non gioca a tennis. Allora io gli ho risposto: però gli dispiacerebbe se lo prendessi tu il raffreddore. Lui si alzò e si allontanò. Ecco, fu l'ultima bugia che dissi in nome del loro Dio, perché in realtà di un Dio che non voleva giocare a tennis con me solo perché mi piacevano gli uomini, non sapevo cosa farmene. Sai, Alan, è diventato grande quel bambino. È un bel ragazzo. Studia anche lui a Cambridge. Un po' di giorni fa sua madre mi ha detto che gli hanno parlato di te altri studenti o dei professori, non ho capito. Ah, abbassato gli occhi, ha farfugliato delle parole, non ho capito, poverina. Non è colpa sua, io non ce l'ho con lei. Loro le hanno riempito la testa delle loro paure e adesso lei si comporta di conseguenza, normale, come tutti. Abbassino pure gli occhi quando passo io. Lo farei anch'io, mamma! Mi vergognerei anch'io se fossi come loro! E il tuo Dio si vergogna per loro! Sì, Alan, io lo so come la pensi su Dio. Ma vedrai che ho ragione io. Dio gioca a tennis e giocherebbe volentieri con te. No, quel professore, una conoscenza occasionale, come l'ha definita lei, viene in casa sua, ci passa la notte, poi ci torna la sera dopo. E tutto questo senza che lei abbia mai la curiosità di sapere il dato del suo giovane occasionale amico. Perché che era giovane penso l'abbia intuito anche lei. È corretto, professore? Le macchine pensano, mamma! Le mie macchine pensano! Però non hanno uno spirito che le accompagna fino alla morte! Le macchine non sono uomini! Hanno dentro di sé lo schema logico della nostra testa! Ma non hanno un cuore! E questo loro,

io che dico sì, mamma, la cosa grave è che io ho detto sì, ma cos'altro potevo dire quando la verità è talmente banale che non riesci a dirla? Allora quella verità forse non esiste. È stato allora che il mio corpo ha cominciato a perdere energia e il mio spirito ha cominciato a staccarsi da questo corpo che è mutilato, orrendamente mutilato, non è più il mio. La luce bianca inizia a filtrare dalle finestre, mi fa male tutto, mi tengo la pancia tra le mani e mi fa schifo, è l'immagine della mia sconfitta. Mamma, ti chiedo solo una cosa, non lasciare che cancellino la mia vita. Le macchine pensano, anche se Alan giace con gli uomini. Io ti ho solo amato, Alan, non ti ho mai giudicato. Oggi, 31 marzo 1952, nel nome di Dio e della Regina, questa Corte condanna Alan Turing, reo confesso di reati contro la pubblica morale e di violenza sessuale contro natura, a sottoporsi ad un trattamento farmacologico antiandrogeno atto ad inibire la libido e a limitarne così la pericolosità sociale. Il trattamento avverrà nella clinica di Gloucester a partire da domani e durerà sino a quando i medici giudicheranno guarito l'imputato. La Corte si ritira. Bianchi e principi azzurri, cacciatori cattivi ma non troppo, piccoli adorabili nani, persino la strega non è poi così cattiva come sembra. Le mele rosse hanno il pregio della straordinaria semplicità, quella elementare forza conquistatrice che solo poche cose e persone riescono a raggiungere. Avevo un amico tanti anni fa, ma nemmeno molti. Insomma, questo amico tu lo guardavi e non ti sembrava niente di che, uno come tanti. Poi lo vedevi dentro un'aula enorme piena di altri ragazzi come lui, e in un tratto capivi che dietro quella sua apparente normalità c'era una costruzione bellissima, complessa, come il più pazzo e geniale degli architetti non sarebbe mai stato in grado di immaginare. Tutto questo impasto, tutta questa fatica che intuivi dietro era solo una sensazione, un sentimento che dovevi avere la forza di capire. Perché quello che restituiva lui al mondo era la forza che solo la semplicità, quella vera, sa dare. Amavo già i numeri quando l'ho conosciuto, ma incontrandolo ho capito perché li amavo, come amavo lui. I numeri modo erano e sono come lui, così semplici da sembrare elementari, e ti stordiscono con questa loro gigantesca bellezza romantica. Avevi ragione, Biancaneve, a mangiarla, quella mela. Io sto mangiando la mia ed è buonissima, come la tua immagine. Non sento nemmeno il sapore del veleno. Il veleno è buono. No, stai tranquilla, non spero che tra poco si apra la porta della mia stanza e appaia il principe azzurro, no. Da quando Christopher è morto, senza lasciarmi nemmeno il ricordo di cosa potesse essere un amore vero, non ci ho mai più sperato. Da allora ho tolto quella parola dai miei pensieri, annullato i desideri. Forse questo è l'unico vero errore della mia vita. Chissà, Biancaneve. Magari un giorno ci rivedremo da qualche parte. Ci rivedremo davvero. Io, te e i nostri principi azzurri. Gli amori che non abbiamo mai conosciuto. Fa freddo là fuori. Io dormo ora, dormo un po', è troppo tempo che non lo faccio. Spengo la luce e ricerco quel mio vecchio sogno. Ci sono io, con le mie scarpe da corsa, bianche, splendenti, i pantaloncini neri, la maglietta bianca, l'erba è bagnata, il prato leggermente in salita, e corro, corro, corro, corro ancora. Il prato è sempre più largo, vedo solo verde intorno, anche il cielo si impasta con il verde e vedo le mie scarpe bianche. Poi il verde scompare. Sono solo le scarpe immobili, o meglio, si muovono talmente bene che sembrano immobili. E infine non vedo più nemmeno qui. Sono solo, sospeso, nel vuoto. E sotto di me vedo un corpo che non è più il mio, che si affanna in una corsa disperata. Allora testa con un sorriso e me ne vado via, leggero. Ah, ancora una cosa. Salutami Babbo Natale, se lo senti.